voi arrapisci il contento d'amor nella scola, si cogli il momento d'amor nella scola, si cogli il momento, si cogli il momento. Rock.